sera siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno tre uomini della scorta. Ecco, c'è Salvatore Cusimano, buonasera Cusimano. Triste veramente e turbato è il nostro cuore. Iniziano le linee del cardinale. Di quanti siamo qui radunati e di tutta questa città. Nel rinnovare ancora una volta, dopo tante del passato, la celebrazione funebre che segue ad un altro efferato delitto consumato alle porte di Palermo. Di dure parole di esecrazione ne sono state pronunziate ad ogni livello sociale e nelle più alte sedi. Anche il Papa ieri levava la sua voce di condanna, di forte richiamo ed anche di irrinunciabile speranza dinanzi alle condizioni di preoccupante debolezza in cui il nostro Paese si trova di fronte al sempre rinnovato insorgere di criminali episodi di inaudita ingiustizia e violenza. Tutti siamo addolorati e preoccupati per l'accaduto, ma è certamente motivo, e lo sappiamo, di particolare sgomento l'avere appreso che il giudice Falcone si muoveva in via e con mezzi che dovevano rimanere coperti dal più sicuro riservo. Chi li conosceva? Chi li ha rivelati ai nemici del giudice, mandante ed esecutori che hanno potuto agire con tanta decisione e precisione? La pubblica opinione ne è sconvolta ed additando le vittime dell'immane strage chiede che si scoprano dovunque e chiunque essi siano i responsabili della feroce soppressione della loro vita. Lo Stato non può mancare a questo dovere. Il ministro dell'Interno Scotti. Non sembra infatti essere questo un attentato restringibile alle dimensioni di Palermo, ma per il modo ed il momento in cui è avvenuto i connotati di un attacco allo Stato stesso e alla civile convivenza nazionale in una sua delicata e difficile congiuntura. Proviene dalle inquinate sorgenti di un occulto potere deciso ad eliminare chiunque in nome della legge tenti di contrastare l'affermarsi e l'espandersi del suo infame dominio basato sulla prepotenza e sulla forza del denaro. E dunque lo Stato, che con il prestigio, la solidità e l'efficienza delle sue istituzioni, dalle supreme e centrali alle più articolate sul territorio nazionale, deve saper sostenere e difendere i suoi rappresentanti e funzionari così che ne facciano dovunque osservare le giuste leggi. Più che le tante disquisizioni e contraddizioni alle quali talora penosamente si assiste e che non sempre riflettono generali interessi, si vorrebbe meglio scorgere che in ogni caso e per tutti la salvezza della Repubblica, cioè della comunità, fosse la legge suprema. Ecco purtroppo caduto ora il giudice Falcone e con lui la signora Francesca Morvillo, magistrato anch'essa, e i tre agenti di polizia della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. Possiamo chiederci se questa istituzione delle scorte non sia ormai da considerare pressoché inutile se tali sono i mezzi di offesa adoperati dai criminali. Vedete come è stata accolta questa frase, in particolare da Cardinale Cappelato, sull'inutilità delle scorie di fronte ad un attacco così massiccio, violento e sofisticato della mafia. Una frase venuta da un punto negativo, angoscioso, che tutti si stanno ponendo. Chi aveva avvisato i sicari di Cosa Nostra di quel viaggio? Ecco! Ecco altre vittime! Quali sono i diversi feriti, tra i quali occasionali passeggeri di macchine in transito nell'arteria sconvolta dalla profonda voragine causata dallo scoppio omicidiale. Dobbiamo apertamente dissociarci. Nulla deve risultare direttamente o indirettamente di copertura per gesti che disonorano la nostra storia. È necessaria una profonda, salutare reazione liberatrice da ogni potere criminale o mafioso, della cui attuazione non possono essere caricati o delegati soltanto alcuni determinati ceti o persone, le autorità, i politici. Essi hanno certamente una specifica responsabilità, ma si richiede la generale partecipazione di tutta la popolazione, sia sotto il profilo delle comunità civili come anche di quelle ecclesiali. Senza questo sforzo di personale purificazione, a cui vanno educati particolarmente i giovani, vano appare ed inconcludente ogni appello alla repressione da parte dei pubblici poteri o alla prevenzione dei delitti affidata soltanto alle leggi penali umane. È da un generale recupero di sensibilità morale nel profondo della coscienza di ciascuno che si potrà sperare la sconfitta di tutte quelle manifestazioni criminose ed illegali che pervadono la nostra penisola, dalle Alpi alla Sicilia, dall'uno all'altro mare. E che diremo agli operatori nefasti di tanti delitti? Meritano di far parte della comunità dei figli di Dio, o non sono da ritenere piuttosto come facenti parte, a motivo delle loro perfide azioni, della sinagoga di Satana? Ricordino comunque che se la loro vita è una aperta sfida non soltanto alla legge degli uomini, ma anche ai comandamenti di Dio, dovranno rendere conto a Lui delle loro scelleratezze. Non si illudano, Dio non può essere irriso, ed anche se le forze del male, diabolicamente scatenate, sembrano riportare successi, che il nostro cuore non vacilli. Le potenze dell'inferno non prevarranno. Raccogliendo financo fra le mie braccia gli ultimi respiri di Giovanni Falcone, pensai che Si trattava di un appuntamento rinviato.